Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Commonwealth, un termine che risale al 1400 e che deriva dalla fusione di due termini, l'aggettivo common, comune, e wealth, sostantivo che significa benessere. Il benessere comune è la suggestione che lega tra loro 53 nazioni che fanno parte del Commonwealth of Nations, erede dell'impero britannico, un'associazione sovranazionale immensa che simbolicamente riconosce come sovrano il re o la regina d'Inghilterra. La nostra storia di oggi si muove proprio sulle coordinate geografiche dell'ex impero britannico e nel periodo storico in cui esso inizia a trasformarsi in Commonwealth. Il punto di partenza è uno dei territori più suggestivi fra gli ex possedimenti di Sua Maestà, l'Australia. Il sesto stato più grande del mondo, il rarissimo caso di un paese che da solo praticamente costituisce un continente e non confina con niente se non con le acque dell'oceano. Sono tanti gli elementi che rendono affascinante l'Australia. Se l'America è per noi europei il nuovo continente, l'Australia, o meglio l'Oceania, dovrebbe essere il nuovissimo continente, dato che gli inglesi l'hanno scoperto solo nel XVII secolo. Oggi l'Australia è uno degli stati più moderni ed evoluti al mondo sotto innumerevoli aspetti. È uno stato straordinariamente multiculturale, dove inglesi, aborigeni, asiatici, africani e americani vivono serenamente tutti insieme nelle più importanti città dell'immensa isola. Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane sono i centri più significativi dell'Australia. A questi aggiungiamoci Adelaide. E ad Adelaide, nel 1880, trasferiamoci insieme per vedere come inizia la nostra storia. Oggi Adelaide è una metropoli di oltre 1 milione di persone in continuo sviluppo. Impressionante pensare che essa sia stata fondata meno di 200 anni fa, nel 1836, quando Re Guglielmo IV d'Inghilterra decide di colonizzare anche l'Australia meridionale. Mentre le altre zone dello stato oceanico sono state inizialmente destinate a colonie penitenziarie, Adelaide nasce subito come zona franca illuminata, voluta da liberi migranti e lontana da persecuzioni religiose, screzi e dissidi. Nel 1880, quindi, la città è già piuttosto grande, anche se ha solo 50 anni. Il 26 aprile di quell'anno, George Edward Logue e Lavinia Rankine danno alla luce il loro primo figlio. È il nostro primo personaggio di oggi. Si chiama Lionel George Logue. Lionel George Logue. Il nome Lionel Logue probabilmente non vi dirà nulla. E in effetti il bello della vicenda che andiamo a raccontarvi è proprio questo. Vedere come la grande storia, quella con la S maiuscola, e la microstoria, quella che ha dimensione quotidiana e quasi domestica, si intreccino, si mescolino, si fondano e diventino una cosa sola, rendendo i grandi eventi del mondo contemporaneo molto più democratici di quanto potrebbero in apparenza sembrare. Lionel Logue muove i primi passi nel mondo di Adelaide, ignaro di quello che il destino ha in serbo per lui. Papà è un pastore protestante e vuole per lui un'istruzione di prima qualità. Così il percorso di studi di Lionel inizia presso il prestigioso Prince Alfred College di Adelaide. Qui al college incontra un docente molto importante per il suo futuro. Si chiama Edward Reeves, insegna dizione. Logue si appassiona all'addizione, alla retorica e anche alla logopedia, seguendo Reeves come assistente e segretario anche dopo il college, quando parallelamente si iscrive al conservatorio dell'Università di Adelaide per studiare didattica della musica e del canto. Conseguita anche la laurea, la carriera professionale di Logue inizia in un'altra città, Perth, presso la quale si era trasferito con tutta la famiglia. Qui, nel 1911, Logue diventa logopedista. La voce umana è uno degli oggetti di studio più affascinanti e misteriosi. Quante tipologie di voci esistono nell'umanità? Una varietà di toni, di tessuti, di colore incredibile, ognuna con i suoi pregi e i suoi difetti, che vanno ad impreziosire modi di parlare altrettanto vari e differenti. Quest'ambito così ricco e sterminato è l'oggetto di studio della logopedia e dell'addizione, che spesso tentano di correggere difetti come afonia, dislessia, balbuzie, problemi che tendono a limitare e a rendere problematica la comunicazione tra gli uomini. Lionel Logue, ancora giovanissimo, si dedica con grande passione a questa professione, con particolare interesse a quegli ambiti disciplinari. A partire dal 1912 gira il mondo per studiare di persona i diversi metodi con cui i leader politici e non parlano in pubblico. Si crea scrupolosamente un enorme database da cui attingere per affrontare i casi che si troverà a curare. Poi, nel 1914, viene ricacciato in Australia dal corso della storia. We are one, but we are many, and from all the lands on earth we come, we'll share a dream, and sing with one voice, I am. In seguito al rifiuto secco del governo tedesco della richiesta di Sua Maestà di garantire che la neutralità del Belgio sarebbe stata rispettata, l'ambasciatore di Sua Maestà a Berlino si è visto riconsegnare il proprio passaporto e il governo di Sua Maestà ha dichiarato a quello tedesco che uno stato di guerra esiste tra i due paesi dalle 11 di sera del 4 agosto. Il Daily Mirror pubblica l'annuncio della dichiarazione di guerra mossa dall'impero britannico alla Germania. È scoppiata la Prima Guerra Mondiale e Lionel Logue fa rientro nella sua Australia. La Prima Guerra Mondiale è un conflitto spaventoso e rivoluzionario, guerra di trincea. E questa è una novità, guerra che coinvolge direttamente i civili, e questa è un'altra novità. Guerra che tocca una varietà di nazioni sparse in tutto il mondo, cosa mai successa prima. L'Australia, che può contare su una propria costituzione e su un proprio parlamento soltanto dal 1900, manda un proprio contingente a supporto dell'esercito inglese. Viene fondato l'ANZAC, un corpo di volontari preparati appositamente per affrontare la guerra in Europa. Il contingente australiano arriva a 300.000 uomini. Ne muoiono 60.000 e più di 100.000 rimangono feriti o mutilati. I reduci dal conflitto faticano a reinserirsi nella società dal momento che i loro orizzonti sono completamente sconvolti. Chi ha i capelli bianchi, chi coltiva disturbi di altro genere, quella dei reduci di guerra è una vera e propria piaga. Lionel Logue dà una mano a modo suo. Lavora con i reduci per ridurre i frequentissimi disturbi della parola che essi hanno contratto in seguito allo spettacolo degli orrori del conflitto. Lionel tenta di risolvere i loro frequenti problemi di balbuzie lavorando sul piano psicologico. Logue ha anche studiato recitazione. È un aspirante attore, per quanto poco dotato, e cerca di servirsi della recitazione e della messa in scena per stimolare reazioni positive nei reduci. Alcuni appunti dell'epoca lasciati da Logue lasciano capire meglio il suo approccio ai drammatici problemi dei reduci. Mi servo dell'umorismo per rasserenarli e per farli ridere, e di una pazienza enorme. Cerco di insegnare loro esercizi di respirazione, li faccio lavorare sul diaframma, come se volessi ridare ossigeno a questa fetta di umanità ferita e sventrata. Diversi anni prima, nel 1907, Lionel si era sposato a Perth con Myrtle Groinert, da cui aveva avuto 3 figli. Nel 1924, sentendo ancora fortissimo il richiamo dell'Europa, decide di portare moglie e figli a Londra per quella che dovrebbe essere una vacanza. Londra negli anni 20 è una città irresistibile. In piena ascesa, negli anni che precedono l'arrivo dell'onda nera della Grande Depressione, è ancora di fatto il centro del mondo, vitale, stimolante, sfaccettata. Durante questa vacanza, non si sa come, a Logue viene offerto un lavoro: insegnare eloquenza e dizione nelle scuole dei dintorni di Londra. Senza pensarci molto, Lionel e la moglie accettano, iniziando l'avventura più entusiasmante della loro vita. I was there too, and you know what they said, well, some of it was true. London calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? Lionel Logue, però, non si limita all'insegnamento. Pur non essendo un medico, continua la sua brillante attività di logopedista, attuando un sistema tariffario estremamente democratico, che si adegua al reddito e allo status sociale del paziente che richiede il suo aiuto. Così, con le tariffe che applica ai suoi clienti più abbienti, riesce a curare gratis quelli più poveri. In breve, a Londra si sparge la voce e Logue diventa richiesto e ricercato. Una mattina come altre, nello studio di Lionel Logue. Siamo nel 1927. Come succede spesso, qualcuno bussa alla porta. La governante di casa Logue si affretta ad aprire. Un'elegante signora si presenta e si accomoda nello studio di Lionel. Si presenta come Mrs. Johnson e dice di essere lì per suo marito. Un caso di balbuzie. Ha chiesto all'associazione logopedisti il contatto di uno specialista che possa aiutare l'uomo ed Eileen McLeod, presidente dell'associazione, le ha dato il nome di Lionel Logue. Un caso difficile, spiega la donna. Anche altri logopedisti prima hanno provato a sconfiggere il problema del marito, ma niente, nessun effetto. La speranza è che l'approccio psicologico di Logue possa produrre risultati migliori. Logue accetta il caso. Capisce che c'è qualcosa di incredibilmente stimolante nella vicenda che quella donna gli sta presentando, ma ancora non riesce a capire cosa. Al momento di definire le questioni più pratiche di quell'accordo, la donna dice a Lionel che vorrebbe che le sedute si svolgessero a casa loro e non nello studio di Logue. Lionel è spiazzato. My castle, my rules, le risponde. Il mio castello, le mie regole. Non ha nessuna intenzione di muoversi dal suo studio e di giocare in trasferta. A quel punto, e solo a quel punto, Elizabeth svela le carte. Mio marito è Albert Windsor, il duca di York, il futuro re Giorgio VI. Giorgio VI. L'aspetto straordinario di quel dialogo è principalmente uno. La ferrea e rigida tradizione britannica, l'etichetta inflessibile legata alla famiglia reale, inizia per un attimo a incrinarsi, ad aprirsi a una visione più orizzontale e democratica. La grande storia e la quotidianità si fondono e si intrecciano, diventando una cosa sola. Apparentemente Lionel Logue non si scompone. Ad Elizabeth dice che non gli importa, che non fa niente, che il duca deve comunque venire nel suo studio, che lui non ha intenzione di cambiare le sue abitudini. Dentro però sente tutta l'emozione di un compito così importante e straordinario, un incontro che il destino gli ha regalato e che oltre allo stimolo della sfida può cambiare per sempre la sua vita. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati stiamo raccontando la storia di Lionel Logue, un eccellente logopedista australiano che si ritrova a esercitare la sua professione a Londra all'inizio degli anni 20. Qui la sua fama cresce fino a fargli incontrare un paziente molto particolare, il duca Albert di York, il figlio del re Giorgio V. Cosa ha portato il figlio del re d'Inghilterra nello studio di un logopedista, per giunta neanche laureato in medicina, arrivato da poco dall'Australia? Cosa lo spinge ad affrontare di petto e in maniera così radicale il problema della sua balbuzie? Il duca è registrato all'anagrafe come Albert Frederick Arthur George Windsor. Nasce il 14 dicembre del 1895 nella residenza reale di Sandringham, nella contea di Norfolk, a est di Londra. La residenza è in una zona incantevole, circondata da un parco meraviglioso, da sempre una delle dimore reali più amate dai regnanti inglesi. Ed è qui che Albert vede la luce, figlio di Maria di Teck e del duca di York, futuro re Giorgio V del Regno Unito. La Gran Bretagna è ancora sotto il più che longevo regno della regina Vittoria, la nonna di Albert, che in famiglia viene informalmente chiamato Bertie. Bertie non ha un'infanzia propriamente semplice. Si racconta che da piccolo soffrisse di qualche disturbo mentale, che fosse mancino, cosa considerata naturalmente sconveniente all'epoca. Viene forzato a utilizzare la mano destra, una delle tante imposizioni e forzature cui viene sottoposto durante la sua rigida educazione. Dal 1909 Albert frequenta il Royal Naval College di Osborne. È cadetto della Marina Reale d'Inghilterra. Poco propenso agli studi, si classifica ultimo della sua classe nell'esame finale, ma passa comunque nel 1911 alla Royal Naval College di Dartmouth, una delle più prestigiose scuole militari della Gran Bretagna. Nel 1901 la nonna, la regina Vittoria, muore. Entra in carica re Edoardo VII, figlio di Vittoria. Resta in carica solo 9 anni. Quando re Edoardo VII muore il 6 maggio 1910, il padre di Albert diventa re con il nome di Giorgio V e Bertie diventa il secondo in linea di successione. I can never forget how the peril from without, but once united all parties. Intanto Albert prosegue la sua carriera militare. Entra in servizio in Marina il 15 settembre 1913 e l'anno dopo presta servizio nella Prima Guerra Mondiale col nome in codice di Mr. Johnson, un nome che, come abbiamo visto, riutilizzerà in seguito. Il suo stato di salute rimane comunque sempre cagionevole, tanto che si ammala di ulcera duodenale mentre presta servizio sulla torretta di avvistamento della HMS Collingwood, nave da guerra impegnata contro la flotta tedesca nella storica battaglia dello Jutland, una delle vittorie più epiche per la Gran Bretagna. Nell'aprile 1918 nasce un corpo militare destinato a segnare la storia della Gran Bretagna, la RAF, la Royal Air Force. Albert entra subito nella RAF e vi rimane fino alla fine del 1918. Con la fine della guerra torna ai suoi studi e li porta a termine nel prestigioso Trinity College di Cambridge. Gli anni 20 sono gli anni dell'ascesa di Albert e di suo fratello Edward. Duca di York il primo, principe di Galles e quindi erede al trono il secondo. Sono posti in tutto, esitante, timido, insicuro il primo, sicuro, spavaldo e deciso il secondo. Un dettaglio li accomuna: i matrimoni anticonvenzionali, condotti al limite o al di fuori dell'etichetta e portati avanti per vero amore, in un contesto in cui l'unione per convenzione è quasi una regola. Albert è il primo a sposarsi. Il 26 aprile del 1923, nella splendida abbazia di Westminster, sposa Lady Elizabeth Bowes Lyon, figlia del conte di Strathmore e Kinghorn, una nobile di basso rango. Affascinanti filmati d'epoca si trovano tuttora in rete e raccontano lo sfarzoso matrimonio di Albert ed Elizabeth. Pensate che la British Broadcasting Company, la BBC, intendeva trasmettere in diretta l'evento, ma il cappellano si oppose fermamente, ritenendo la cosa dissacrante. I let you go for so long, it's a nice day to start again. Come on, it's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Per il matrimonio del fratello Edoardo attendiamo ancora un po'. Concentriamoci su Albert, che, come detto, sposato ed eletto duca di York, aiuta il padre Giorgio V a gestire gli affari economici della corona. È un reale decisamente atipico. Lui ed Elizabeth, infatti, vivono lontani dallo sfarzo e dagli occhi indiscreti sempre puntati sulla corte, al 145 di Piccadilly. Il motivo di questa riservatezza è evidente: la profonda insicurezza del duca a causa della sua balbuzie. Aspettando che sia io a cominciare una conversazione, si rischia di aspettare abbastanza a lungo. Un difetto tremendo per chi per lavoro deve parlare in pubblico. Un'inesauribile fonte di sofferenze e ansia, ben descritta dal film Il discorso del re di Tom Hooper, con uno straordinario Colin Firth nei panni del duca di York. Perché balbetto dall'azione? Il terrore di dover affrontare un discorso, di incappare in una figuraccia, fomentato da un padre, il re d'Inghilterra Giorgio V, che si pone in modo molto duro nei suoi confronti e nei confronti del suo difetto, paralizzano letteralmente Albert. Nel 1931, ad esempio, rifiuta la carica di governatore del Canada, preferendo il calore e la sicurezza della sua vita familiare unicamente per il timore di dover pronunciare un discorso di accettazione in pubblico. Vi prego, chiamatemi Lionel. No, io preferisco dottore. Io preferisco Lionel. Come devo chiamarvi? Altezza Reale. Poi Sir, dopo di quello. È un po' troppo formale per qui. Io preferisco i nomi. Principe Albert, Frederick, Arthur, George. Che ne dite di Bertie? Solo la mia famiglia usa quello. Perfetto. Beh, qui dentro è meglio essere alla pari. Nel 1927 Albert di York arriva nello studio di Lionel Logue, condotto dalla moglie Elizabeth. Si fa chiamare inizialmente Mr. Johnson. Quando le porte dello studio si chiudono e i due rimangono soli, il primo contatto è tutt'altro che semplice. Albert, nonostante il suo approccio schivo alla vita reale, ha sangue nobile nelle vene ed è poco disposto ad abbandonare facilmente il suo piedistallo. I metodi di Logue, ruvidi e anticonvenzionali, spiazzano il duca. Albert, infatti, ha frequentato in precedenza altri logopedisti, con approcci tradizionali ma risultati fallimentari. È abituato a sostenere interminabili quanto infruttuosi esercizi di potenziamento del diaframma e rieducazione della pronuncia. Lionel, invece, cerca di scavare nel profondo della psiche e dell'inconscio del suo paziente per risalire alle origini del trauma che l'ha condizionato. Quando è iniziata questa imperfezione? Sono sempre stato così. Ah, ne dubito. Non! Lo dite a me, è il mio balbettio! È il mio campo, vi assicuro, nessun bambino comincia a parlare con un balbettio. Il vostro quando è iniziato? A 4-5 anni. Sarà un lavoro lungo e difficile, ma questa strana combinazione cambierà radicalmente e per sempre le vite di entrambi. The long and winding. That road before. Destini incrociati. Il duca di York, Albert Windsor, erede al trono balbuziente e insicuro, e Lionel Logue, il logopedista australiano che nel 1927 inizia a prendersi cura di lui. Siamo a Londra, negli anni compresi tra la fine della Prima Guerra Mondiale e la Grande Depressione, sotto il regno di Giorgio V, padre di Albert. L'incontro tra il duca di York e Logue cambierà per sempre le rispettive esistenze e segnerà l'inizio di un'amicizia molto forte e duratura. Progressivamente, passo dopo passo, il lavoro di Logue inizia a dare i suoi frutti. Piccole tappe testimoniano il progressivo recupero del duca. Poco più di un anno dopo l'inizio delle sedute con Logue, Albert inaugura con un discorso il nuovo Parlamento federale australiano. Dio vi benedica tutti e ispiri il vostro lavoro. Dio salvi il re. Il discorso è un successo. A parte un paio di incertezze, Albert riesce ad andare liscio e spedito. Ben diverso però è portare a termine un discorso di insediamento con una corona sulla testa. Albert non è l'erede diretto di suo padre. Il fratello Edoardo, il principe di Galles, è destinato a prendere la corona dopo la morte di Giorgio V, morte che avviene il 20 gennaio 1936. So far as is humanly possible, let us break it up into little pieces. Quello che sentite in sottofondo è il primo discorso di Edoardo VIII, il fratello di Albert, come re d'Inghilterra. Succeduto a Giorgio V, Edoardo dà subito scandalo. Se il matrimonio di Bertie con Elizabeth aveva fatto scalpore in quanto la donna apparteneva a una famiglia nobiliare di basso lignaggio, crea un vero e proprio caso il legame tra Edoardo e Wallis Simpson, una donna americana sposata e con un altro matrimonio alle spalle. Il re è anche il capo della chiesa anglicana che non concepisce il divorzio. Il ruolo è inconciliabile con il suo legame amoroso. Dopo un anno di crisi e di scandali, il re abdica in favore del fratello. Dovete credermi quando vi dico che ho ritenuto impossibile caricarmi il fardello della responsabilità e svolgere i miei doveri come re, come avrei dovuto e voluto, senza avere accanto l'amore e la fiducia della donna di cui sono profondamente innamorato. Ora mi allontanerò dalla vita pubblica e probabilmente passerà del tempo prima che io faccia ritorno nella mia terra natale. Ma seguirò le faccende della Gran Bretagna e del suo impero con profondo interesse. E se in futuro sarò chiamato a servire Sua Maestà, mi farò trovare pronto. Ora abbiamo un nuovo re. Auguro a lui e auguro a voi, la sua gente, felicità e prosperità, con tutto il mio cuore. Dio vi benedica. Dio salvi il re. È il 12 maggio 1937. Albert, inizialmente restio, sta per essere incoronato re. Dietro le quinte della cerimonia, accanto a lui, il fedele Lionel Logue. È il momento del suo discorso di insediamento, che sarà impeccabile, nonostante il cuore carico di emozione. La storia saluta re Giorgio VI. Colin Firth, l'attore britannico che ha interpretato Giorgio VI nel film Il discorso del re, racconta così il suo personaggio dopo averlo studiato a fondo nei minimi dettagli. Re Giorgio VI, a causa della sua balbuzie, si era trovato a vivere un senso di inadeguatezza, profondo e terrificante, soprattutto dopo l'abdicazione del fratello. Un peso spaventoso da sopportare. Alleggerito soltanto da un'autentica amicizia tra due uomini di mezza età, un re balbuziente e un logopedista australiano, bizzarro e spiantato. Una storia profonda di amore e di amicizia. Il film si conclude descrivendo la prova più impegnativa del re, il discorso più importante e più sentito, l'annuncio dell'entrata in guerra dell'Inghilterra contro la Germania di Hitler. Il 3 settembre 1939, Gran Bretagna e Francia dichiarano guerra alla Germania dopo che questa ha criminalmente invaso la Polonia. Re Giorgio alla radio fa sentire la sua vicinanza al popolo britannico. Logue, accanto al sovrano, lo rassicura con la sua presenza. In questa grave ora, probabilmente la più fatidica della nostra storia, mando ad ogni famiglia del mio popolo, sia a casa che oltremare, questo messaggio, pronunciato con la stessa profondità di sentimento di ognuno di voi, come se fossi in grado di oltrepassare la vostra soglia. Per la seconda volta nella vita della maggior parte di noi, siamo in guerra. Il re non abbandonerà mai il suo popolo durante il conflitto, scegliendo di rimanere a Londra insieme alla consorte Elizabeth per far sentire la sua rassicurante presenza. Logue viene insignito invece del titolo di comandante dell'Ordine Reale Vittoriano, un prestigioso riconoscimento per lo straordinario lavoro fatto con Re Giorgio VI e per il suo intenso rapporto d'amicizia con il sovrano. Un altro suo paziente, Richard Horton, non certo illustre come il sovrano balbuziente, raggiunto da un cronista britannico in occasione dell'uscita del film che racconta l'amicizia tra Logue e Giorgio VI, dà un emozionante ricordo del logopedista australiano. Ricordo chiaramente la gentilezza di Logue. Un uomo magro, esile, capelli grigi e modi accoglienti. La sua voce era sempre lenta, calma e molto rassicurante. Ecco, ricordo che tendeva a rassicurarmi e a incoraggiarmi, a normalizzare il mio problema, a non farmene una colpa. Ricordo il suo accento australiano. Ricordo che, a differenza degli altri logopedisti presso cui ero stato, cercava di scavare nella mia emotività per trovare una sorta di blocco. E ci riuscì. Ricordo la tristezza quando sentii alla radio della sua morte. Avevo saputo che si era lasciato progressivamente andare dopo la morte della sua amata moglie. Non avrebbe sopportato la solitudine. Lionel Logue muore a Londra il 12 aprile del 1953, un anno dopo Re Giorgio VI, che lo precede scomparendo il 6 febbraio del 1952. La loro storia è una delle più belle e forti che si possano raccontare sui reali britannici. Una storia di grande forza etica e morale. Una vicenda in cui l'amicizia è in grado di corrodere i rigidi vincoli di convenzioni secolari e di intramontabili pregiudizi di classe. Se ne sono accorti anche i giurati dell'Academy di Los Angeles. Dopo le 10 nomination ricevute, Il discorso del re, il bel film di Tom Hooper, ha trionfato nella scorsa notte degli Oscar, aggiudicandosi alcuni dei riconoscimenti più importanti, riportando così nel miglior modo possibile la giusta attenzione su questa splendida storia. Almeno voi abbiate giorni migliori. Qualcuno dica no, qualcuno si impegni, che poi è la verità a nutrire i sogni. Più fantasia, così non ti spegni, qualcuno lo insegni. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini Incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.